volveremos con más información interesante. No dejes de visitarnos. Hasta entonces, un saludo, amigos. Non sei a casa tua, no? Meglio. L'altro giorno mi sembra un po' più forte, ho l'impressione mia. Boh, non lo so. Guarda adesso, vedi un po'. Ah, è più forte di radio. Allora, il segnale arriva con i picchi quasi a 9+20 arrivi. E cioè i belli, i picchi sono molto abbondanti, però la voce è diversa, boh. Hai cambiato microfono. No, no, no, sempre 60 su 706. Ah, cacchio, mamma mia, vabbè, Luca Flipper, se fate un bel aggiunto, Luca nel Monte, aggiunto, ma è diversa la, la voce. Sì, beh, certo, vedi un po', 60 con 706 amplificatore inserito, vedi un po'. E sei molto nasino, come sembra che stai parlando da lontano, Luca. La, il segnale è forte, cioè dei picchi esagerati, parti da 9.10 e arrivi a 9+20. Però la radio è troppo, troppo tonalità media, c'ha. Già è chiara, ti capisco, però sembra che stai parlando dentro un tubo. Basta che lo capisci. E beh, claro. Allora, no, qua sta arrivando bene. E tonalità acute, c'ha, mancano un po' i bassi, ma già va bene. E il microfono suo non ce l'hai, Luca? Sì, se vuoi te lo provo l'originale. Aspetta che abbasso un attimino qua che il Daiwa sta impazzendo, aspetta. Ehi, quando è che mi fai provare quel microfono tu invece, Claudio? No, ma dai a me la radio, lo lascerò io a provarla. Te lo dico io, ce va bene, poi te lo, se no te lo. Puzzinusi, vabbè dai, prendila quando la vuoi. No, ero curioso di vedere come usciva, perché l'altro giorno mi hanno sentito, dice non si capiva niente. Gli altri mi hanno detto no, già è chiara, però è troppo bassa. È troppo bassa, no, non è il mio quel microfono, di Daniele o... vabbè, però non c'è problema, ti dico, già lo posso fare. No, voglio provarla, quella radio, adesso che c'è spazio, che ho tolto un po' di roba. La posso provare, capite? Che sono curioso di vedere se con quel microfono spinge, perché col microfono normale è un cesso. Vabbè, sicuramente non spinge. Io mi ha detto Giulio, lui la usava con l'SBA, di SBA ne ho un paio, ma non ho voglia di mettermi a fare collegamenti. Questo è l'originale ICO. Questa è un po' più forte, la sento, però è sempre un po' nasina, vabbè, probabilmente quel tipo di radio. Cos'è? Con 706? periferia. Non sono nati per queste robe, ma se tu magari li metti tipo la Dunis che c'ha l'equalizzatore, riesci a farla uscire bene con la radio. Guarda, senza compressore. Senza compressore è più chiara. E allora vuole abbassata, spieghi, e rimette 60. Ma io ti ho detto di tenere 60 senza compressore, lui, che va molto molto meglio. Dai un po' più di Michigan e boh. 706 quello che c'aveva maestrale, che fine ha fatto? Quello l'aveva dato a me, poi io l'avevo venduto a un radioamatore perché ne avevo due. Perché quello suo era il tribanda, il mio era il quadribanda, l'avevo venduto. E sono belle radio, ma non sono nate per la 27, io dico, ma proprio con gli ICOM non ho mai trasmesso 27. È una modulazione chiara, però non è bella come questa del K, capito? Prova Luca 60 senza compressore. Allora, 60 senza compressore. Aspetta un attimino che tu il Mikey Gain. Adesso a 6, a 5. Non c'è tutto a scarica, come mai? A scarica? Questa di po'. Tutto a scarica, sì. No, vabbè. Eia. Tutto bene il microfono. Guarda, 1, 2, 3, vedi un po'. Tira sul Michelin, a quanto ce l'hai? A 5, mettilo a 7, a 8. Aspetta, questo è al massimo il Michelin, vedi un po', senza compressore. No, va bene, cazzo, va bene. Sì, è chiara Luca, lasciala così, poco fa non mi piaceva la modulazione, ah, tipo nasina, strana, così è chiara, è più naturale. Così è chiara, sì che se mettono nel compressore è peggio. Troppo forte rimane, abbassa, mettilo a 6. Allora, no, allora, a 4, a 5, vedi un po' qua. Mettila a 4. A 4. Mettila a 3. Addirittura. Trova a 2, lascia a 2. No, mettila a 3. A 3. Così va bene la modulazione, a 5 è troppo alta. Vedi un po'. È molto meglio, perché quando sono entrato è tutto strano, sembrava parlando dentro un tubo metallico. Non lo so. Perché era troppo alto di amplificazione, siccome le mancano i bassi era troppo acuto, invece tenendola così a 3, col compressore inserito va bene. Tu con cosa stai uscendo qua? Con 140. Aspetta, mi va bottezza, bella forte, guarda. E allora, già va bene, già va bene. Sono soddisfattissimo, non ne ho mai avuto di così in ordine. Molto bello esteticamente e anche il funzionamento è ottimo. Ehi, avete detto che quello là che l'aveva vista ha detto che non ne aveva mai capitato così nuova, e quello ne ha visto di radio Bianconi. Beh, ma poi anche chi ce l'aveva sicuramente la teneva bene, perché gli slider sono nuovi, frontalina nuovo. Capito, no, è bella, sono soddisfatti, infatti sto usando quasi sempre questa. Ehi, ok, lasciamo un attimo di bianco, se qualcuno vuole entrare sul 10, avanti, se no riprendi tu Luca. Ehi, io sto andando col dipolo, sempre, polarizzazione orizzontale. Addirittura? Sì. Poi dovrebbero venire a prendersi il 706 questa settimana, se no, già di no. Sì, ho un dipolo autocostruito, capito, ho tolto tutto, robè. Cazzo, c'è un bel segnale, dove sei tu? Non sei andato dolce, Luca? E io? Andato dolce, sempre. Ho tolto tutto, c'era il dipolo, così che ho lasciato quello, ma è a penzoloni, Cazzo, sta arrivando quasi 9 più 20, sei qua. Dimmi una cosa, ma ti sta aiutando, stai spingendo forte? Cosa? Stai spingendo forte, però. Te lo sei io, ma te lo dico subito. Aspetta, sono allora con saranno 20 watt. Allora, senza parlare sei quasi 9,20, parlando anche un peluzzino più di 9,20. Sì, anche qua così, 9,20 con picchi a 22-23. No, c'ha dei bei picchi molto visibili, cioè normalmente poche radio spingono così tanto di nuovo con quel processore. Ok, va benissimo, il segnale è forte, considerando che dove sei, cacchio, sta andando alla grande. Dov'è però? È una zona buona quella dell'approccio, poi noi lo vediamo sicuramente. Ma anche l'altra voce qua arrivavano intorno ai 9, 9,5, ma che non avevano antenne grosse, però considerando che lui c'ha un dipolo in orizzontale, cacchio, sta uscendo alla grande. Sarà costretto lui, Luca, ci ha lasciato fare le antenne, poi c'era il adattatore d'antenna, le terrà bene, capito, c'ha gli strumenti per fare le antenne. Buccia di gioca, no? Ok, Luca, quando ho piazzato l'altra con la 3 elementi, no scusa, 3 o 4 elementi, forse 4 elementi, ma come la metto? Quella cosa è 4 elementi o 3 elementi, quella che ho io, l'antenna? No, quella che era da me era 3 elementi, quella è 4. 4 elementi, magari gli diamo uno sguardo, Luca, quando c'hai 5 minuti di tempo. Sì, quando vuoi, salgo con l'analizzatore. Quelle che costruisco io, anche il dipolo che ho fatto per Claudio, sempre tutte esclusivamente fatte con un analizzatore di antenna. Almeno sei sicuro che è accordata l'antenna. Allora ora attacchiamo la strada a bagno, liscio, e 50 metri non ne ho più. E tu riuscite a vendere le sette le radio, Cla? Tutte vendute, ti mando la foto, non c'ho più niente. Luca ha fatto strike, partito 756 oggi. Tutto venduto, fuori alle balle. A che 756 hai dato? Sì, venduto, è partito oggi, no Luca? Esattamente, è partito oggi. Oh, vabbè, quando Claudio mi prende parola, mi dice voglio vendere quello, via, già partito ancora prima di dirmelo. No, cacchio. Quanto l'hai venduto? Quanto l'hai chiesto? Quel prezzo che hai chiesto? Cosa? Se l'ha venduto il prezzo che c'era scritto nella inserzione, o di meno? No, prezzo pieno abbiamo venduto. Già è buono, dai, poi uno se si cambia il display è una bella radio come la. Quanto è la matta, Roberto? Mi ha dato ottime soddisfazioni con la radio. Sì, ma infatti chi l'ha preso mi sembra che abbia già il display, si doveva comprare il display, no? Beia. Oggi, proprio oggi. Sì, infatti mi ha subito risposto su WhatsApp. Poi c'hai il costo, la tracciatura, così che non si scappa niente, è tutto arrivato, antenna, tutto. Anche l'antenna è arrivata in ottime condizioni, mi ha detto. Che te lo dico, che ci male l'avremmo fatto, ma un bauli. Ma lo sai, corrieri come sono. Lui, ma tu mi hai detto di fare così, ho fatto così. Io l'ho fatto prima uno strato per legarle tutte col cartone. Un primo strato, non a pezzi, a strisce, tutte legate bene. Poi le ho praticamente tutte a volte nuovamente col cartone, è data una prima passata di nastro, tutta al cartone e al nastro. Poi gli ho dato un'altra passata di cartone e due rotoli di nastro. Con le antenne sì, già riesco a imballarle perché ne avevo già fatto, ma con la radio... Con la radio sono troppo sfortunato. Ti ricordi il 940 a Guido? Era arrivato col case tutti chicciato. Ma come arrivavano i vortori? Ci avevamo le fotografie. Infatti non si scappa niente. Aspetta un attimo, dottor, scendo dal menu. Ecco. Non si scappa niente, perché io mando le foto anche a chi compra, capito? Infatti, ma quello del 756 mi ha detto ottimo, in ballo, boom, ma allora e oggi è partito, capito? E cosa vuoi fare di più, Ocla? Oh, alla grande, sono troppo contento, ho fatto fuori delle cose che non mi servivano, delle cose già vecchie, però in ottimo stato, e funzionanti soprattutto, capito Roberto? E mi sono tenuto le cose essenziali. Io lui, lo sai cosa voglio dare? Però non so quanto si può vendere, la PKV c'ho con l'antenna, 8,60 metri l'antenna, mi c'ho la figura qua, lo schema, è un'antenna che fa da 1,8 a 30 MHz, nuova, perché l'aveva installata maestrale, l'ha tenuta poco e poi l'ha tolta, io l'ho tenuta a bucciolo qualche mese, però non mi biasi, tanto non la sto utilizzando. Quanto si può dare con l'antenna on-road, si chiama, scritto Al-Rad, da 1,8 a 30 MHz fa, copertura continua. E vabbè, poi 780 lo stesso, c'è l'offerente, che anche quello 99% è venduto, capito? Sì, ma avevo già detto una cosa, l'ho già tolto, intanto le foto te le ho mandate, tutto quello che diceva te l'ho mandato, se serve qualche cosa lo rimetto, perché era lì sopra a prendere il polvere. L'ho messo dentro la sua scatola originale, c'è la scatola originale con la radio, vuole più la scatola che la radio. L'ho messo dentro la scatola, ma non prende il polvere, capito? Ne ha già bugato, è già tutto dentro la scatola, così non c'ho niente a mezzo alle balle. Adesso c'è solo un offerente, anche oggi ho guardato, poi mi arrivano le notifiche a me di quando qualcuno offre qualcosa. c'è sempre quello. Vabbè, vediamo un po' come va a finire anche quella, comunque è già venduto, dai. Stavo dicendo, Luca, non so se ti ho parlato sopra, quanto si può vendere l'antenna, quella che ti ho detto, quella PKV? A me? Non mi hai sentito, forse ti ho parlato quando stavi parlando tu, io ho una PKV che fa da 1,8 a 30 MHz, copertura continua, 8,60 m di altezza, il modello è Al-Rad, si chiama. Robby, mi devi mandare la foto, il modello, io te lo metto in vendita. No, tu dici a te quanto si può vendere? Non lo so, è una verticale, sì che bobina, eccetera, eccetera. E c'è una bobina sotto, nella base e 4 radialine. Non c'è tanto mercato su quelle, perché diciamo che non sono carichi fittizi, però insomma, là, avanti tu, dai. Comunque, stavo leggendo l'altro giorno, uno la stava cercando, poi ho perso l'indirizzo, uno sto cercando verticale 1,30. Io ho visto la fatta differenza con la Mantova, i segnali in HF che io prendo con la Mantova 7, con quella li prendo 9. Mantova 7? No, allora io ho la Mantova 1 e vado in HF per ascoltare. I segnali HF, un segnale in HF, ascoltandola con la Mantova 1 arriva a 7, l'ascolto con questa PKV arrivano 9. Mandami le foto, dai. Non lo so, non la conosco, io ho avuto la CP6, l'ho venduta subito, tra l'altro, perché era richiestissima, però come antenna non era un granché. Mandami le foto, il modello. Il cellulare ce l'hai, no? Ma quella lì non è una 5 bande. Questa sta da 1,8 a 30 MHz, copertura continua, mi c'ho il coso. Il modello si chiama Al Ancona, Livorno, Livorno, Roma, Ancona, Domodossa, Al Rad. Sì, una PK5 quella è, lo so. Lo so, l'ho già vista, funziona anche bene, c'era un radiomattore di Piacenza, invece con quell'antenna lì, la PKV5, la PKV2, è una buona antenna, non lo so cosa fare lui. Guarda le foto a Luca, se no le mandi a me e io le mando a lui se non ce l'hai. Ehi, ti mando il Deplian, c'ho il Deplian sotto, te lo mando a te e poi lo mando a Luca. Ce lo dovrei avere il numero di Luca, però adesso non me lo ricordo, dopo me lo mandi tu magari Claudio, comunque lo mando a te. E poi sto pensando, tanto non riesco più da attendi, il 101 Digital e l'altro, il, cosa cacchio si chiama, il 700, il TS700, tanto non li sto usando, cosa dici? A farmeli furia e poi magari cercami una radio seria. Ho fatto io, sai che ho dato le cose vecchie. Il 101 Digital l'ho visto su eBay, è quotato, è quotato, ce n'era uno, non so se in condizioni di quello, quello lì è nuovo nuovo, e lo stavano dando 280 euro più le spese di spedizione. Mandali le foto a Luca, mandali a me e io le mando a lui, capito? Non ce n'è problema. E che io ho sempre il desiderio delle 9,40, che una radio a me mi piace di gruppo, ma se riesco a vendere un po' di roba mi busco un 9,40. Quello, ma quello là, il 9,40, quell'amico, dai, quello già mai capito, ma lo sta volando 400 euro o 700 euro? 400. 400 euro, ci paghiamo tre giochi, dove lo trovi 9,40, 400 euro, nuovo nuovo? Se è buono è regalato, 9,40 lo paghi 700 euro. Via, 400 è regalato, lo vuoi? Io mi metto in contatto con lui. Ma chi lo sta vendendo? Una persona fidata, tranquillo Roberto. Ma qua in Sardegna? Eia, qua a 10 minuti. E ne parliamo, dai, se gira già mi faccio regalo a Natale. E riusciamo a scambi non gli interessano a lui. No, non ne voglio più, barragione io. Non voglio più niente, vabbè. Gli ho tolto le antenne, ho tolto tutto. Guarda, io ho il 430, adesso è in 80 metri. Dove cazzo il volume? Porca puttana. Dove cazzo il volume? Eccolo qua. Ricezione che è una favola. Ho messo 4,30 in 40 e 80, che so, vabbè, poi posso andare in 20, in 15, eccetera. E gli altri in 27, gli altri, l'altra in 27, l'altra, che è questa, che perché 4,40 non c'è più. Ma stiamo parlando di 4,40 o di 9,40? 9,40, io non voglio, io ce ne ho due, mi bastano, gli altri li ho tutte vendute, robe, tutte vendute. Ma chi ce l'ha? Non ce l'hai tu la 940, Clara? No, in provincia di Sassari, se tu lo vuoi, vai tranquillo, che è una persona affidata, ce l'hanno proposta, a Luca l'ha proposta a me, e io non ne voglio, non mi interessa, non ne voglio più a HF, non mi interessa, capito? Se tu lo vuoi, fidati che è regalato a quel prezzo, fatti il regalo per Natale, perché è regalato, e poi ti metti in vendita l'altra roba, ma non lo perdere quello lì. No, sto dicendo, se funzionate l'apparecchio funziona bene, soprattutto in ricezione, io ho visto che c'è un'ottima ricezione con l'apparecchio. Ecco Luca, qua l'ha trattato Luca, se Luca ti dice prendilo, perché io ho fatto come mi ha detto lui e non me ne sono pentito. Vuol dire che lo conosce bene lui. E vabbè, teniamo presente e poi ci mettiamo d'accordo, vediamo un pochettino. Se mi dice la gira mi faccio regalo per Natale. Poi magari me ne libero di queste due, tanto non le sto utilizzando, sono sempre ferme e magari possono interessare a qualcuno. Il digital è bello, un peccato, però là, tanto non lo uso contro la tendi, è fermo di lì per bellezza. Lo sto dicendo, mi da Luca. La stessa cosa ti dico, io radio per bellezza non ne voglio più, mi tengo la roba essenziale, ce l'ho l'HF per fare HF, c'ho l'HF per fare 27, c'ho le UHF e c'ho le VHF, anche se non entro, però è meglio avere le cose che mi servono essenziali, basta, il resto ho dato tutto, nella scrivania non c'è più niente, c'è la base di sopra è completamente vuota. Non me ne affutti nulla, devo guardarmi la radio per non usarle, ma non me le posso indenare, me le conservo, se poi capita un affare che mi può interessare davvero, bello, di ultima generazione, perché no? Posso anche ricomprarlo, ma per il momento non compro niente. Vai Luca. Non c'è più. E cosa, quanto si può vendere il 700? Cos'è il 700, il TS700 quanto si può dare? 200 euro. 200 euro si riesce a venderlo? Sì, io c'ho valore. Il suo valore io l'avevo pagato 300, il suo valore 200 euro, e 200 euro ti fai il digital, quello che ti ho dato io, cioè 400 euro, e l'hai recuperato su 2940. Vabbè, il digital bisogna farlo sistemare, ci sarà qualche problema, perché non lo so, io l'ho provato così, ma sarà di andare a riallineare e cosa, ti mettiamo come mi sei piaciuto, perché ci sarà da sistemare, però esteticamente è nuovo, già lo sai pure tu, non è al grafi, è in ordine la radio. No, me lo io lì, Mondetta, con la radio non c'ha niente, non vuole allineata né niente, ma futtidina, vuole solo accesa, tenuta accesa e boh, forse ci vorrà qualche altra cosa per provare. Vabbè, il valore è 280 euro, 250 e 280, la vendi a 200, lì ci guarda, sarà da allineare, provare, fare, non so, lo dici tu, ma vai così, come io ho dato il 756 in ottimo stato, da vetrina, con manuale tutto, perché non c'era un graffio, veramente nuova, della vita Luca, nuova, da sostituire display, l'ho messa a 400 euro, saranno, c'erano 90 offerenti, fatti un conto. Dimmi una cosa, questo che c'è 9,40, tu lo conosci qua? No, lo conosce Luca, io non lo conosco. No, dico, eventualmente se ne interessano degli scambi. Lo so, quindi guarda, il maestro di queste cose è Luca, io non ne so. Non me ne intendo, io mi sono affidato a lui e grazie a Dio ho fatto fuori, ma in pochissimo tempo, in giro di un mese e mezzo abbiamo fatto fuori direttive, rotore, tre radio di buona stacca, capito? Un'altra l'ho data io, per i fatti miei, ho fatto un bel gruzzoletto da comprare già una radio di ultima generazione, ma non ne compro, non me ne affutti nulla. Io ti mando le fotografie a te e poi le passi a Luca, perché adesso non mi ricordo dove l'ho messo il numero di Luca. Vabbè, tu manderai a me, già le giro io a lui, non ti preoccupare, capito? Io mi apporto tutto, quello che mi serve ciò, non è che sono sprovvisto, ha voglia che ne ho, però quelle che non usavo mi sono rotto le balle, lo volevo riparare il 756, mettere il display nuovo, e c'era quelle reghine che poi funzionante al 100% anche così, perché la frequenza si vedeva benissimo. Cioè, mi aveva anche trovato il display, Luca, 125 euro, però non ho trovato chi mettermelo a posto, dice, ma vaffanculo, voi, mi fuori dalle balle. Ne ho sotto mano io, ne ho dei radio sotto mano, ma non compro niente, non me ne fotti nulla, mi bastano due HF, uno per 27, uno per fare HF, un V e un U, basta, tutto base, boh. Senza avere rotture di balle, tutta questa scrivania piena di radio, 10 microfoni per fare che cosa? Per guardarmeli. Ui. Infatti alla fine hai fatto la scelta migliore. Adesso ti mando le foto qua del Digital, 101 Digital, del TS, cosa cacchio, TS 700 e la fotografia del Deplan dell'antenna. Guarda, ma non andiamo a vedere il giro a Luca, però lo conosco il TS 700, beh. Ce l'avevo io, il 700 è il figlio del quello del 780, di quello che c'ho io, capito? 780 è bibase, è bibanda, e il 700 è monobanda, sono belle radio. Ma poi cioè, il 720 funziona, il 101 digital probabilmente bisogna riallineare qualcosa, ma il corso del 711 me lo tengo. No, 711 non lo vale, perché se lo vai me lo riprendo io. 711 non si docca, quello è raro, infatti se trovi l'accoppiata con l'811 c'hai due radio mondiali, ma cosa sono di mondiali, se ti capita di prenderti la licenza c'hai due radio favolose, per le due e per le U. Sì, no, ma l'ho visto, riceve molto bene, io l'ho provato in ricezione, il 711 è una bella radio, poi si assomiglia un bel a 440, va nella stessa cosa, i tasti, quasi uguale, si assomiglia un bel, ti ho mandato tutto. Sì, sì, aspetta che sto guardando, no, c'avevo mia figlia qua che mi stava chiedendo una cosa. Sì, questo è il 109, è bellissimo, cazzo, favoloso, veramente favoloso, e questo è il TS700, sì. Adesso li giro a Luca, non ti preoccupare. E questo è il manuale della, sì, la GP5, da 1,8 a 30 MHz, sì, fa 10, 15, 20, 40 e 80, GP5. Tanto non mi interessa, quando sarà mi metterò qualcosa di diverso. Non mi piace vedere queste antenne, prende un bel di vento e coso. Quanto costava nuova più o meno con l'antenna? Franco, ho toccato il coso e mi sono spostato di frequenza. Sì, vabbè, ma fai benissimo, guarda, ti dico, mi hai sempre consigliato, ti ricordi, del radio, alla fine ho ceduto, perché cioè, non faccio più attività come prima, una volta dentro le direttive, le antenne sono quelle che comandano il radio, quando ne hai una di HF, cioè collegato il dipolo, 15, 20, 40, 80, sono le bande che a me piacciono, che faccio? Basta, boh, finito, cosa ne fai lì? 4 HF, babba i dattini, belle, bellissime, sempre spente, ah vai. E io stavo dicendo, quanto poteva costare nuova con l'antenna, con la PKV? No, la PKV doppio è molto caro, te lo dico perché io inizialmente volevo mettere una verticale, poi Marco mi ha detto una cosa, oggi la verticale compra tre elementi, gli agi e altro che, quindi sono andato su quel lavoro lì. Fortunatamente non ho recuperato tutti i soldi, ma comunque insomma, qualcosa mi è entrata in tasca, se la biglia in curva. E avevo chiesto il prezzo a Martelli, mi pare che costava intorno, però ce ne sono tanti modelli, attenzione, intorno alle 320-330 euro. Sì, allora quella lì, quella lì è nuova, quella che ho io non ha mai lavorato in ordine, siccome l'abbiamo messa su, infatti mi dispiace anche vederla così al vento, per non trattarla. Guarda, fai come ho fatto io, Roba, intanto molta gente certo, pensa di vendere a prezzo pieno, non venderei mai, io rottore l'ho pagato 300 euro, ho venduto 150, le antenne le avevo pagate 700 e le ho vendute 300, più mi hanno preso la spedizione eccetera, quindi va bene, cioè quando la metti a metà prezzo la vuoi mandare via, Luca ti dice quanto esattamente costa nuova e la fai fuori a metà prezzo. E come hai fatto per il trasporto qua, per organizzare il trasporto di una cosa così grande? Questa è 8,60 m, ogni pezzo sarà, ci sono pezzi anche di 3 metri. Tanto figurati il boom mio che era 6,50 m, avevi di montare. conteggiano il pezzo più lungo, non deve superare i 3 metri, ricordato. Quindi deve essere la mia, fortunatamente a 2,70 sono riuscito a fare tutto, a 2,70, 2,75 mi sembra che era. Ma è imballata veramente con le controballe. Luca mi ha fatto prendere quel cartone a rotoli morbido, l'ho tutta imballata, varia un bauli. Infatti visto che è arrivata in ottimo fatto, perché dentro ci sono tutti i cavallotti, tutti i distanziatori che sono in polietilene, cioè tutta roba originale, manuali, eccetera, quindi ho dovuto fare un imballo ad hoc. Tu per imballarla non ti preoccupare, il cartone ce l'ho io, non devi comprare niente. L'importante è che quando vuoi me lo dici, come abbiamo fatto per montarla, la smontiamo tutta, la facciamo più piccola possibile, poi la imbagliamo e si tiene pronta a partire. Ehi, infatti la voglio togliere appena ho 5 minuti di tempo. E sabato devo fare cosa? Devo andare la mia amica mi ha chiesto una cortesia, se deve cambiare lo scaldabagno, mi ha detto se l'aiutavo, ho detto già ci vengo. Se no l'avrei fatto questo sabato, considerando che c'è una bella giornata. Ma Luca che fino a fatto? Luca ieri. Se ne faccio allontanato al telefono. Luca ci sei? Perché da solo mi viene male. Se mi dà la mano tua, chiamo qualcuno di cosa, la buttare nell'aiutante, 10 minuti ci vogliono quella lì. Ecco, se l'abbiamo piazzata assieme ne la togliamo, no? Che problema c'è? Sì, la faccio organizzare. Non ti preoccupare, quando sei pronto, come l'altra volta, anche di sabato mattina, capito? Dopo che chiude l'officina, dopo le 10, si butta giù. Sì, tanto sarà 10 minuti di lavoro, basta portare le chiavi giù, sarà la sfida, tu e nella gavi. Sono da solo viene male perché se no fai danno, in due bisogna uno che sviti e l'altro la sollevi. Io l'ho vista ancora qua, fa rotto le balle, sì. Non ti preoccupare, quando vuoi. Se Luca ti dice quanto costa, che mercato c'è, tutto a me mi ha fatto tutto lui, capito? Io 756, non sapevo quanto darlo, quindi abbiamo un po' sondato, abbiamo prima cercato il display quanto costava, l'abbiamo anche trovato, allegato alla vendita, perché abbiamo scritto display disponibile su Bibumba, infatti sono andati subito a vedere lì e c'era, di quella serie lì. Ha fatto tutto lui, abbiamo quantificato il valore della radio messa a posto, è di quasi 600 euro, 550, 600, la dai a 400 euro, spendi 100, 150 euro per il display, 550 euro c'è la radio nuova. No, già una bella radio, ce l'ho pensato io, pure ho detto vabbè lasciamo perdere, perché il mio sogno è sempre stato 940, perché mi piace come radio, poi c'è l'alimentatore interno, c'è una bella ricezione, a me piace soprattutto perché c'è una bella ricezione. Ce l'avete già avuto a quest'ora. Vabbè, per giù bai tecla, che non mi ha capito bene, o anzi non ti ha giù compreso bene. Ma sei tu che avrei capito. Poi alla fine me l'hai data a me il 440, quindi potevamo benissimo fare appunto, vabbè, non siamo capiti. Io ho venduto a 600 euro con la radio, nuova, sempre Luca me l'aveva venduta un po' di anni fa. Un po' di anno che appunto ti ho detto che stavo vendendo 940, all'850 avevo venduto, ehi, mi hai venduto il radio, mamma mia, come sto. Ah, poi del 940 c'ho l'autoparata esterno che me l'avevi venduto tu, la CP 940, te lo ricordi? Esatto, la colonia esterna l'ho data a te, sì, non l'ho data la colonia esterna, l'ho data solo al radio. Ehi, a che poi è molto più alto di un 440, io non l'ho mai visto davvero quello. Ha la stessa altezza della tua colonnina, fa linea con quella colonnina lì, con la CP 930, con quella colonnina lì la stessa altezza. Io ho la T230, l'accordatore sempre di linea esterno. Ma di lunghezza è più largo, molto più largo di un 440. È la stessa lunghezza, ti sto dicendo, la stessa lunghezza, la stessa altezza della tua colonnina. Sì, non mi sono spiegato. Allora, il 440 di frontale è molto più piccolo del 940. A metà è. A metà, quindi è mezzo maduro il 940. Il frontale, vabbè, cazzo non ci capiamo, il frontale del 940 la stessa altezza della colonnina. Ho capito, non mi sono spiegato. Se tu prendi un 940 da visto dall'avanti e lo metti a fianco a un 440, molto più grande del 940. Cazzo, ci sto dicendo che è il doppio. Cazzo, ma la colonnina davanti ce l'hai. Minchia, tu prendi l'altezza della tua colonnina, mi pare 30, boh, 35, 40, 45, è un bel grande. L'altezza è quella lì. E 4,40 è la metà di quella colonnina come altezza. Sì, allora, sì. Quindi è enorme la radio. Poi c'è l'orologio pure, quello che rimette è l'orologio. Mette l'orologio, il grafico, bello, bello. La radio pesa, me lo ricordo come oggi perché l'ho spedita io, pesa 23,25 kg. È una bella, tipo il Trio, la stessa cosa, il Trio, l'hai visto quanto è grande il Trio? È gantubessa. Anche 75 c'è, ma sì, non so se pesava 13 o 15 kg, boh, qualcosa del genere. E 780 ne pesa di zotto, 18,5, l'ho pesato, quindi fate il conto. E sono radio... Le radio vintage, vabbè, no, gente, sono piene. Le radio invece di ultima generazione sono vuote, perché quando io sollevo un 780 e sollevo il 790 mi viene da ridere, che il 790 è uscito dopo, mi viene da ridere. Non so, è come i televisori di una volta, che abbiamo in mano un televisore pesava 40 kg, adesso ci sono questi LCD che non hanno niente dentro, c'hanno una scheda, microprocessori e buh, tutta l'alimentazione switching eccetera, prima pesavano 30 kg un televisore. Non so, aspetta che vuole leggere un messaggio, Luca, tu sei? Che avanti che non sta uscendo di radio. Luca, ci sei? Ciao Robè. Ciao Giù, ma non eri tu che stavi uscendo? No, il segnale era più basso. No, assolutamente. No, non ero io. Ehi, Robè. Stavo dicendo, ma al metro lo conoscete tutti e due con queste misure, più largo, più alto, più basso, più corto, più lungo, mamma mia! No, siccome io il 940 non l'ho mai visto dal vero, e la radio l'ho sempre ammirata in fotografia, non l'ho mai vista, però mi piace perché c'ha l'alimentatore, a me non piacciono le radio con gli alimentatori esterni, infatti tutti i base, i baracchini sono tutti base, quelli che utilizzo io, non mi piacciono proprio i veicolari. Già lo so, perché tu Claudio non le dice, lui ti diceva l'altezza, tu non le dicevi l'altezza, per quello che non siete intesi subito. E larghezza lo stesso, è lui più di 4,40 contro l'altezza, è quello dove siete spiegati bene. Stavano dicendo due cose diverse, no, perché io ho l'altoparlante del 9,40 e c'ho anche l'altoparlante del 4,40, che la metà di 2,40 è la metà. Infatti il 9,40 è molto più massiccio, molto più massiccio. Lo conosco bene. Per quello, anche a me piace molto quello, ma comunque, andate, poi tutto il resto fa brodo, c'è chi piace, c'è chi non piace, qualcuno se l'ha venduto perché dice era troppo grande, qualcun altro invece dice che era bellissimo, e in effetti per me personalmente è bellissimo, a me piacciono queste radio, quelle belle, grandi, massicce, masolunte, per cui il 9,40 sotto funziona molto molto bene. Sì, cioè c'era qualcuno forse che stava entrando, avanti che vuole entrare. Quando stavi parlando tu ho sentito una portantina sotto. No, ma il 9,40, quando tu vedevi il film La guerra del Golfo, facevano vedere dei film, ho visto tante immagini, lo usavano gli americani nel corso per trasmettere la radio a livello militare come robustezza, lo usavano nelle stazioni mobili, dai. Questo non lo so, ma sicuramente è una gran bella radio, veramente. Io penso che a livello di Kimwood forse il migliore, io non è che lo conosco, non è che li conosco tutti, però forse è il migliore secondo me, 9,40. Perlomeno per sentitoria e anche da chi ce l'ha avuto, da radioamatori, l'hanno sempre vantato. È una gran bella radio, veramente. Poi l'avevo visto a casa lì, non mi ricordo a casa, vabbè, il nome non ti dico, a casa lì, chiaramente per una questione di privacy. Devo dire che è veramente una gran bella radio, veramente bella, bella, bella. Ma una figura, guarda, non se ne capisce più di queste partite, così spettatino, ma comunque. È vista a casa mia, non ce n'è privacy. Oh, vabbè. Ma c'è spione, Silvio, madonna di Dio, sei proprio spione, sì. Io qua guardo, ero qua con Roberto, quindi non c'è niente da nascondere, lei mi sa casa mia, era qua quando sei venuto tu a prendere le misure 9,40, quindi non ce n'è problema, non ho niente da nascondere. so, non ci siamo capiti e quindi l'ho venduta ad un altro. È una gran bella radio, era una gran bella radio, adesso chiaramente è un vintage come tutti gli altri. Devi stare attento perché parte il MOSFET del ricevitore, praticamente dove c'è lo stadio del preamplificatore d'antenna, e diventa un pochino sorda, capito? Devi stare molto attento a cosa, che antenna le metti e che come la usi, ecco, tutto qua. L'unico difetto che ha il 940 è quello lì. A differenza degli altri vintage dell'era che furono. Vai, Roberto. Io l'ho sentita in banda laterale da radioamatori ed era una bomba confrontata. Allora c'era qualcuno, ho sentito delle QSO, uno c'aveva 940, l'altro c'aveva l'ICOM, un altro c'aveva lo IAESU, ma le radio moderne, eppure quella dava da fare, c'era una modulazione da paura in banda laterale. Ma quella mi sembra che ne va anche 200, se non sbaglio, vero qua? È 940, mi sembra che ne dava 200, non era i classici 600. Avete parlato in due, chi c'è sotto? Avanti la dico che vuole entrare. Una portante. Qualcuno che sta mettendo una portante sotto le te giù, però lo passi. Sì, vabbè, ogni tanto c'è qualche deficiente, no? Che è sempre incinta la madre e sforna a bastardi così continuamente, non è un problema quello. Stavo dicendo qua, ma generalmente, mi ricordo, adesso non vorrei sbagliarmi, ma nel 940 ne sputtavo fuori 200, vero? Sale, senti, tu sei passato, tu però ti dà fastidio questa portante. Quando stai parlando proprio te la metti a posta, non so chi sia o qualcuno che vuole entrare e magari non ascolta. Chi è che vuole entrare su 10? Sì, un imbecille da quelle parti vostre, perché qua non arriva il segnale, non c'è segnale qua. È un imbecille da alcuni giorni da quelle parti che ogni tanto si diverte a mettere la portante. Vabbè, comunque, mai si vede che mai si annoia. E si annoia lui e chi l'ha partorito. Non ho capito, qua è quasi 9.20, tu sei 9.20 abbondante e non so a Claudio quando arriva. Claudio ti passa, lo passa a Giulio. Forse al telefono Claudio. Fa la cosa, Giulio, siccome io mi devo assentare, se mi fa la cortesia, glielo dici a Claudio, o a chiamare, ci sentiamo domani che devo dire roba, perché adesso mi hanno chiamato, devo andare via. Se, a meno che non mi risponde adesso. Claudio, ci sei? Sono qua, mi sono un attimo andato a bere, mi stavate parlando voi. Ah, cacchio, pensavo che te ne andavo. Passa domani in officina, Claudio, ok? Eia, va bene, domani mattina ci faccio un salto. Dai, ci sentiamo, Roberto. Buona serata, buon numero, vado, io sento a salutare. Mi sono allontanato, visto che avete parlato, sono andato a bere, vai giù. Ok, ciao, vabbè, ci sentiamo alle prossime. Ok, allora, stavo chiedendo, Claudio, adesso io... Ma lo senti tu, Giulio? Poi non so se sono sì. Sto dicendo cose esatte. Che... Lo disturba un bel qua. Mi sembra che ne dava 200, vero? Questo ce l'ha con te sicuramente. Non me la vado a nasce lucido, cosa vuoi che ti dica? A lui, alla madre e anche al padre se ce l'ha. Vai si vecchia a mai da lui. Qui non arriva, segnale qui non arriva, è qualcuno lì da vostre parti, perché qui non arriva. È 9 più 20 qua, siete proprio al limite, ti capisco ma al limite Giulio, cosa hai detto? Ho detto se il 940 ne dava 200 watt. No, 940 non ha mai dato 200 watt, è la versione da 100 watt, no. In banda laterale, se a posto P&P può dare 100, 120 watt, ma non di più, ma c'è il finale da 100 watt, mentre in AM non dà più di 30 watt. Ho capito, sì, quello da AM già lo sapevo, ma adesso io non ero sicuro, ho voluto chiedere. La memoria, ho voluto chiedere per quello qua. Ripeto, quella portante che voi registrate qui da me non arriva nella maniera più assoluta, proprio zero assoluto, per cui sarà qualche deficiente che c'è lì dalle vostre parti che mette portante ogni tanto. No, sì, qua è fortissima, molto forte Giulio, molto forte, tu sei 9.18, lui è 9.20, abbondante, ti disturba parecchio, capito? Sì, ma ho capito. capito, già l'ho capito, già l'ho capito. E forse ho intravisto il segnale della portante, forse l'ho intravisto, vediamo un po' se la rimette. E ti posso dire subito che ti posso anche dire chi è. Sassari il Vecchio, guarda, è Sassari il Vecchio. Oh, io non mi esprimo, qua è 9 più 20 pieno, 9 più 20 pieno, abbondante pure, 9 più 22, e tu sei 9 più 18, più o meno come ti arrivo io, quindi quando stai parlando ti disturba parecchio, si capisce poco, mi capito? Sì, ho capito qua, è una portante che mi arriva con quel segnale da Sassari Vecchio. Adesso l'ho calato anche un pochino, vedi? No, a me è molto forte Giulio, molto molto forte, molto forte, sta andando e aumentando anche, adesso 9 quasi 25, fra un po' non ti sento più. Sì, vabbè, claro, non è importante, vai, ci sentiamo un altro momento, non è un problema, figurati, non è un problema, vabbè dai, non fa niente. Non fa niente, io solo spero una cosa, che riesci a realizzare i debiti a lui e a tutti i suoi familiari, tutto lì. No, non ho sentito Giulio, è 9.25 adesso, deve aver dato più motore, 9.25 ti passa completamente, poco fa ti disturbavo, adesso ti passa completamente. Che riesci a rilocia e dei suoi familiari. Dipende poco di casino. E c'è un bastardo che sta mettendo a portante o lui. Da te quando arriva da te la portante o Luca? E chi è questo che sta parlando adesso? Quando è la portante adesso? Vedi? Non l'ho guardato, l'ho smesso. E guardalo. Passa da Claudio? Sì, da Claudio mi passa. Quanto è Luca? 9.10. Ho capito. 9.10. Vabbè, dai. È un pancia di fulfaro. Ma perché non la smettono, io non lo so pure. Perché sono bastardi, ecco perché non la smettono, perché sono dei bastardi, nel vero senso della parola. Pace bene a tutti, buonasera. Gianni, da te quanta vita con la portante, guarda. Aspetta che devo guardare. Accendo la luce perché sono al buio. Vabbè, il diabete ti accecchetti. Oh, qua vi passo a tutte e tre. Tutte e tre, anche a te Luca passa, perché 9.25, tu col di Polo sei 9.20, dai, sei lì, anche con lo stesso segnale di Giulio Arrivi, quindi la portante è 9.25 adesso. E così, Gianni, guarda la portante quanto arriva, se è la solita 9.10 da te. Non è vero portanti, aspetta. No, ma controlla quando la mette. Cazzo, ma giorni non mi arrivi, allora vai via da sotto casa. Cazzo, sotto casa mia. Può darsi che sia sotto casa tua, e cosa ne so. No, Gianni. Questo gatto giù lo fa oraggio, arriva a meno di 9 da me. Meno di 9. Allora... Sicuramente, allora, o è lì al quadrato, vicino a Claudio, probabilmente al quadrato, sarà in macchina, ma speriamo che mi dice, mi dice il bidi. Al quadrato? Al quadrato mi arrivi 9.60 a me, al quadrato, ti metto che 9.25, è un semplice segnale di normale, a me quelli che sono in macchina al quadrato mi arrivano 9.60. Dalla macchina al 9.60 al quadrato ti arrivano, senti, a fondo scala praticamente, e vabbè dai, comunque mai si vengano, che ne vengano tutti i dolori di questa terra, tutti a lui. Sì, Gianni, l'altra volta stavano provando, erano 9,40, 9,50. Sono 400 metri dal quadrato, l'antenna, vedo la piazza, la piazzola, il piazzale grande io da sul tetto del quadrato, quindi. No, sono qua, no. È un segnale normalissimo con lineare attaccato. Era 9,25. Questi due sono due segnali questi che a me mi arrivano. Uno mi arriva da Sassari Vecchio e uno mi arriva dall'esterno e arriva. È uguale, identico, nessun problema. Comunque, mai si vede che mai si annunciare. E dire che rimettono Manzano. Cazzo, l'antenna giù! Prima già stanno da io, però voi sono in bicicletta l'antenna, ui! Lascia prendere! Cazzo, l'antenna giù, ascolta a me! No, non ho fatto niente, già va bene così! Così è capace che non si spezza, che me lo fa fare? Sai così, andare! Se non andare, di ascoltare, che ne riesce a venire in piedi, dalla mamma, lo babbo, e tutti tanti i familiari! Fai come ti ho detto io per quell'antenna lì e poi alzala. No, non faccio niente, lascio qui. Sì, sì, sì, è 2,50 metri l'altezza, così che va bene, 2,50, 2,30, più o meno quella misura. E va bene così, ma ti sembra che io per poter sono qua di l'antenna mi ribobiliamo, ma sul tubo, tu mi dirai, ma non sono questi 20 euro per il tubo, no, è quello che mi pesa, a me non mi pesa i soldi, io li averaggio, grazie a Dio i soldi ce li ho, è lui che mette importante che non ha cervello, che mi riesce a subito, anzi con un gastigheggio una macchina appena riesce a darla. Ma infatti giù, pazzo ti dici, tu sali l'antenna quanto la puoi salire, che soldi non è un problema. No, non smetti, se per quello potrei anche trovare il sistema come passare alla grande, no, non è quello che mi interessa, ma non mi interessa andare a fare gare con uno stronzo. Mi sembra che io faccio le gare con uno stronzo, ma figurati un poco. Ma questo ce l'ha con te o con tutti? Non lo so io, bisognerebbe chiedere a quel bastardo, l'hai sentito che poco fa, anche quando stavate parlando tu e Luca, mi sono portato ugualmente. Si ha detto con l'olio che non passavate nemmeno voi. Dove può essere? È al centro, tra noi e te. Cosa vuoi che possa succedere? Se non mandarlo al manicomio, io spero che ci vada presto al manicomio. No raga, a me parlare così non mi piace, dai. No, non vi sento, c'è la portante, no, non mi va. Ci sentiamo, dai. Voi potete parlare perché siete vicini, la portante evidentemente è favorevole a me e non mi va. Ciao a tutti, QRT, dai, alla prossima, ciao. Aspetta qua, guarda che quello non ce l'ha con me, o con Gianni o con Luca, ce l'ha con te che non ti lascia ascoltare. Vabbè, a me non me la... Lui ce l'ha con te che non ti lascia ascoltare, ecco qual è il problema qua. Non ce l'ha con gli altri, con noi che trasmettiamo da lontano, ce l'ha con te che non ti fa ascoltare. Ma cazzo, una cosa del genere se la mette solo quando parli tu e quando parla Gianni e Luca no, non ho capito. C'è poco fa hai detto che l'ha messa anche quando c'era Gianni e Luca parlando. No, se la mette, ho detto, non sento neanche a Gianni e Luca il segnale più alto, non la mette quando parli tu. Vuol dire allora ce l'ha con me, ma è lei che mai si annuncia, Edu e tutti gli altri dei suoi familiari, e mi dice, tanto un blitto gli dai bimbi. L'ha messo anche l'altro giorno, se ti ricordi, solo quando parli tu, eravamo io e tu, ed era buona a te, io lo già dentro, ma per me era una fotte lunga, io così non ci parlo, dai, non mi sporco di canale, sennò non mi interessa, dai, ciao a tutti, alla prossima. Guarda, questo segnale qua a me mi arriva, da un paese, mi arriva, da Sassari Vecchio e dall'esterno di Sassari, quindi circondario di Sassari, sono tre segnali, dunque non vengono da sbagliarsi molto volte, guarda. Probabilmente facendo tu da sopra di tutto è un segnale che viene da un paese che tu arrivi, che tu senti molto bene, che a me mi sentono poco, perché come io sento a lui poco. Lo so, io non mi voglio esprimere, ma il fatto che ci siamo guattoiati, arrivare così no, a me non piace parlare, dai. vero. Appunto, anche perché mi ha confermato il segnale Gianni poc'anzi, e arriva Gianni con quel segnale, con la persona che sto indicando io, che pure non ho fatto nome, però molto probabilmente è lui. Aspetta un attimo, che mi stanno telefonando, Roberto, aspetta. Gianni. Sì, sono qua, ma non dateli molta retta, tanto se no fa pigio, se li date retta fa pigio, si diverte, capito? Questa gente qua non vuole calcolata quando fa queste cose. No, ma è un handicappato mentale o Gianni. Ne abbiamo parlato più volte anche fra amici e tutti quanti siamo dello stesso opinione, è un handicappato mentale. E se vuole continuare a mettere la portanza, intanto lo sappiamo che è lui. Non c'è problema. Io non sono riuscito a capire chi è, perché è un po' un'incognita. Qua da Sasso di Vecchio mi arrivano tutti un bel forte. Su Profetta mi arriva 9.30, Antonio mi arriva 9.30, e tutti così mi arrivano, invece questo arriva a meno di 9.8 sarà, dai. Appunto, è quello che ti sto dicendo, perché arriva e da un paese che lo sente molto bene. Non lo so, io non voglio dire nulla perché non ho capito chi è, però chi lo fa sempre fa male, perché disturba tutti, non disturba solo a te o a chi vuole mettere la porta, disturba tutti qua. Guarda che, ma conferma, mi ha dato il tuo segnale, o il segnale che dicevi tu Gianni, mi ha dato una conferma. E chi ha un minimo di cervello che intenda per capire. Yamma. Appunto. Avanti Luca. Però ce n'era uno che diceva Giulio Fauraggio, lo sentivi? Io non ho sentito niente. Sì, ha detto Giulio Fauraggio, così diceva. Non lo so, se io non lo stavo parlando è chiaro non lo potevo sentire. No, ma pensavo che magari l'avesse detto anche altre volte. Io sentivo così, Giulio Fauraggio, ripetevo. E beh, tu dalla voce non l'hai conosciuto? No, perché era camuffata la voce. Ah, ho capito. Vabbè, dai, comunque. Ma io vengo a mezzanotte. Luca, ci sei? Se ne sarà per un altro canale. Probabile anche. Vabbè, dai, comunque. Andiamo bene, Mattesi. Hai visto, adesso gli si sono seccate le mani a quell'handicappato, per cui è sparito. Bobo. Così è. Ma cosa vuoi mai giù? Lasci di farci la faccia del bicio. Infatti. Ma già lo sappiamo che intanto è una specie di mongoloide. Perché non c'è da meravigliarsi? Poveretto, con tutto il rispetto per le persone malate, veramente. Ma lui ce l'ha nella mente, ce l'ha la malattia. Scrivimi a chi stai pensando, Giulio. Già te lo scrivo. Capito? Magari quello che penso io, che stai dicendo tu, che sto pensando io, dai. Allora mandami un messaggio, dai, perché in questo momento sta caricando. Ed è tuo... Dimmi che stai pensando, che subito ti rispondo, perché in questo momento è attaccata alla presa, nella presa fuori, perché questi qua sono tutti occupati. Esco un attimo e te lo dico. Mandami intanto un messaggio, che stai pensando. Gianni, non è carico ancora, dai, mandami un messaggio tu, perché ancora non è carico, non è invia, era zero, era quasi. E però riceve. Dove siete? Siamo qua. Io mi stavo preparando, dai. Ok. Vabbè, comunque. Ora è 7:30, 7:33. Ora sì, per il cane già è ora. Mi sto preparando. Ok. Ho il telefono che sta caricando. Ancora non è carico. Stavo aspettando un messaggio da Gianni. Comunque Claudio, quello lì è un segnale al paese. Mi stavo allacciando le peppe. Dai, scalzo che già va bene.